campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 22 dicembre, il sole in regione è sorto alle 7.47 e tramonterà alle 16.24, la giornata più corta assieme a ieri e a domani dell'anno. Giovedì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli. La carne bovina protagonista del servizio di apertura di oggi la promuove la nuova cooperativa La Rossa Pezzata del Friuli Venezia Giulia, dall'allevamento alla vendita grazie ad un progetto dell'Ateneo di Udine finanziato con 50.000 euro dal PSR, il piano di sviluppo rurale regionale. Nella rubrica del bio parleremo di Green Deal europeo, accordo di programma per far fronte all'urgenza imposta dal cambiamento climatico, chiamato per ora a passare dalle belle parole ai fatti. Per la storia del vino, nuovo capitolo nella vita dell'antica Roma, mentre l'abete rosso, con le sue caratteristiche botaniche, ci riporta in atmosfera natalizia. Vita e miracoli del Purcitari, il norcino, spesso detentore dei segreti di famiglia, nella rubrica dedicata al maiale e in quella delle ricette, le tempistiche di cottura regolate sulla durata delle preghiere, come si usava un tempo. Andamento dei mercati, previsioni meteo per la settimana, con una breve nota di climatologia locale e il tradizionale proverbio friulano chiuderanno la puntata. Una filiera integrata della carne del Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di offrire un prodotto riconoscibile a consumatori sempre più attenti ed affidabile per identità territoriale. Un progetto di innovazione aziendale e di filiera, quello cui ha lavorato il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali ed Animali dell'azienda agraria Servadei dell'Università di Udine. Tutto incentrato sulla carne bovina di Pezzata Rossa. A coordinare il lavoro il professore Edi Piasentier dell'Ateneo Friulano. Questo lavoro ha portato alla nascita di un polo della carne della Pezzata Rossa. Di che cosa si tratta e chi ne fa parte? Si tratta di un gruppo di allevatori di Pezzata Rossa che fanno capo all'associazione Anapri e all'associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, che si sono messi in rete con un'azienda di trasformazione, hanno costituito la cooperativa La Rossa Pezzata del Friuli Venezia Giulia, che si occupa anche della commercializzazione a livello locale della carne. La Pezzata Rossa friulana, oggi Pezzata Rossa italiana, che caratteristiche ha? È una razza intanto a duplice attitudine, proprio da questo deriva anche l'originalità, se vogliamo, del progetto, che è un progetto carne, però fatto con una razza che produce prima di tutto latte. Dai suoi animali, in particolare dalle vacche a fine carriera, è possibile ottenere dei prodotti di elevata qualità. Qual è il peso numerico di questa razza bovina? Complessivamente somma 26.500 capi. Un terzo, diciamo, dell'allevamento regionale è incentrato sulla Pezzata Rossa. C'è da dire che è anche una razza, a differenza delle altre, in continua crescita, proprio perché garantisce questa sua capacità produttiva duplice per la sua fertilità e per la longevità. Il team dell'Università di Udine ha puntato sull'innovazione di processo. Questo che cosa significa? Attenzione al benessere animale innanzitutto nell'azienda, attenzione ai problemi della sostenibilità ambientale, ma poi anche, come dicevo, innovazione di processo nel senso di valorizzare un animale, la vacca che ha finito di produrre il latte, ha raggiunto un'età ragguardevole rispetto al contesto nazionale, che può essere appunto apprezzata anche per le sue carni. Dunque questa è anche l'innovazione, proporre al consumatore carni che altrimenti andrebbero, diciamo, sprecate in prodotti commerciali di basso valore. Il valore della zootecnia da carne in regione è di 160 milioni di euro e rappresenta circa il 20% del valore della produzione agricola regionale, un comparto che negli ultimi anni ha sofferto un calo del valore della produzione anche delle capacità di allevamento. Una filiera come quella della Pezzata Rossa può aiutare a risollevare un settore che presenta diversi punti di debolezza, tra cui proprio forse quello di una insufficiente valorizzazione qualitativa della carne che viene prodotta qui. Dal 2016-2017 questa caduta continua del consumo di carni bovine ha invertito la tendenza, si è stabilizzata e sta leggermente crescendo, proprio anche grazie grazie a iniziative di valorizzazione, pensiamo alla Scottona, ma anche a queste, che vanno a proporre prodotti nuovi con anche una visione innovativa della zootecnica e dell'allevamento, legandolo al territorio. Professor Piacentieri, abbiamo detto benessere animale, bovini che sono non solamente al pascolo, ma anche negli allevamenti. Certamente, negli allevamenti dove oggi ci sono condizioni per l'allevamento bovino molto favorevoli. L'animale vive in spazi ampi con possibilità di scambio con gli altri animali in allevamento, di espressione del suo comportamento etologico. Se c'è il prato c'è una mucca che lo conserva. Ecco, io vorrei che questo slogan diventasse un momento di riflessione per tutti, perché in effetti l'ambiente rurale al quale siamo abituati è anche legato proprio ad un'agricoltura integrata che prevede anche l'allevamento. La Commissione europea nelle scorse settimane ha pubblicato la struttura dell'atteso Green Deal europeo. Che sia green e che sia pratico, dice Cristina Micheloni nella rubrica del bio. Perché? Perché abbiamo assolutamente bisogno di questo New Green Deal, che insomma fa l'eco un po' a qualcosa di rooseveltiana memoria, nel senso di provare a fare una cosa ambiziosa, nuova e che abbia un impatto. E appunto sull'impatto noi vorremmo ricadesse. Piluccando un po' nel testo di questo documento, ci balzano agli occhi alcuni termini che ci piacciono, tanto per dirne alcuni: una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sul profilo delle risorse e competitiva. Non dovrebbe generare emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Ci piace, evidentemente ci piace. Chiaramente pertiene a tutti i settori, dai trasporti all'industria, all'edilizia, alla mobilità, e l'agricoltura e la pesca hanno un ruolo di primaria importanza, finalmente riconosciuto soprattutto in questi periodi di crisi climatica, dove l'agricoltura può essere, da un lato è il settore che ne risente più di tutti, ma dall'altro anche quello che può dare maggiori soluzioni. E leggiamo appunto, per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, che agricoltori e pescatori europei saranno fondamentali nella gestione di questa transizione. Evviva, finalmente viene riconosciuto questo ruolo. Andando oltre, balza di nuovo agli occhi agricoltura biologica, agroecologia, agrosilvicoltura, benessere degli animali, ridurre significativamente l'uso non solo dei pesticidi chimici ma anche di fertilizzanti ed antibiotici. Insomma, sono tantissime di quelle idee di cui da questi microfoni abbiamo parlato diverse volte. Tutto bene dunque o c'è qualche perplessità? Ah, siamo positivi per natura, però io comincio un po' a preoccuparmi quando leggo poi nella seconda parte i verbi al futuro. Quindi la Commissione, la nuova Commissione, perché è nuova pure la Commissione, presenterà un piano di investimenti, condividerà con gli Stati membri e ammette anche che c'è un ritardo estremo. E insomma, ci siamo tutti consapevoli che siamo già in ritardo per affrontare la crisi climatica, e dall'altra parte c'è però un'urgenza di fare qualcosa. Quindi direi che diamo sicuramente fiducia, però visto che siamo a fine anno ci tentiamo di farci anche degli auguri propositivi, ovvero che questo Green Deal o European Green Deal sia ambizioso il giusto, ma anche senza perdere di concretezza, e non affoghi soprattutto nella retorica e nella burocrazia. Io però aggiungerei anche un augurio pragmaticamente friulano nel declinare insomma il Fasin di Besoi in maniera propositiva, ovvero questa è la politica, però c'è qualcosa che possiamo fare noi da subito come cittadini, come contadini, come allevatori. Cominciamo da Natale, proseguiamo a Capodanno e per tutto l'anno nuovo, facendo diventare una sana abitudine il mangiare bio, locale, stagionale e senza inutile dannoso packaging. Questo per esempio è già un inizio importante. Siamo arrivati alla terza puntata del Vino nell'antica Roma con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine. A che punto è lo sviluppo di quest'arte? Ma diciamo, l'enologia chiaramente nel corso dei secoli subisce delle evoluzioni. La prima evoluzione è quella di maggiormente sfruttare l'uva, cioè modificare o meglio ancora ottimizzare le tecniche di pressatura. Quindi si utilizzano dei torchi a leva che sono più efficienti in termini di pressione esercitata. Ma la seconda innovazione, sicuramente più importante, non viene dai romani ma viene da una imitazione di usanze di tipo celtico. Nel III secolo avanti Cristo i Celti scendono nella pianura padana, i famosi Galli occupano la pianura padana e, attratti diciamo dalle qualità organolettiche dei prodotti della penisola, compreso il vino, lo conservano all'interno di contenitori di legno. Quindi compaiono le prime botti di legno di piccole dimensioni, qualche decina di litri, chiamate brente. Questo contenitore, diciamo, di legno lo ritroviamo poi in un avvenimento che si ha, diciamo, in piena epoca imperiale nel 90 d.C. Cosa succede praticamente? Che c'è una grandissima carestia, per cui a Roma, città con 1 milione di abitanti, viene a mancare il cereale, viene a mancare quello che l'imperatore doveva garantire alla sua popolazione, cioè il panem. Quindi l'imperatore Domiziano nel 92 emana un editto che proibisce la coltivazione della vite al di là delle Alpi, o ne limita fortemente la coltivazione della vite. Ecco quindi che bisogna approvvigionare le legioni al di là delle Alpi con vino prodotto in Italia. E come si fa ad approvvigionarle? Specialmente le guarnigioni nell'area più bellicosa, l'area danubiana, utilizzando un porto di approdo del vino in anfore, Aquileia, e trasferendo il vino dalle anfore a contenitori in legno, per cui l'indotto di Aquileia diventa a quei tempi un indotto di bottai. Quindi il vino in botti di legno viene trasferito attraverso le Alpi nelle aree danubiane. Arriva Natale, case addobbate, cucina in fermento e regali sotto l'albero, albero che, se è vero, è un esemplare di abete rosso di cui tutto ci racconta Antonino Danelutto. Il Natale della nostra infanzia, allora tanto più atteso quanto più modesto, oggi è ancora rappresentato dal tradizionale alberello dal caratteristico profumo resinoso, l'abete rosso. Il suo nome scientifico è Picea abies, quello friulano Pech. È alto fino a 40 metri e più, ha chioma piramidale sempreverde, i rami sono quasi orizzontali a palchi regolari. Le foglie aghiformi, pungenti, lunghe circa 2 cm, sono inserite singolarmente e rivolte in ogni direzione attorno al ramo. I fiori sono piccoli coni rossicci, quelli maschili sono ricchi di polline giallo assai allergenico, i femminili sono rosso-violacei. I frutti sono pigne pendule rossastre, cilindriche, lunghe 10-15 cm. Poiché predilige il clima continentale, nella nostra regione l'abete rosso è diffuso soprattutto nei boschi della fascia montano-subalpina e costituisce la principale risorsa legnosa. I suoi tronchi vengono prevalentemente usati in falegnameria e come legname da costruzione edile, inoltre forniscono pasta per carta. Le gemme, raccolte in febbraio-marzo, contengono resina e un olio essenziale antisettico delle vie respiratorie, espettorante e blando diuretico. Il decotto di gemme è utile contro dolori muscolari e nevralgie lievi, mentre la resina, comunemente chiamata pece di Borgogna, viene impiegata nella preparazione di cerotti contro i reumatismi. Ancora oggi c'è chi usa lasciare al sole le gemme immerse nello zucchero che, sciolto dopo aver estratto i principi attivi, viene preso a cucchiai contro la tosse. Nella Val Canale cresce un particolare abete rosso detto di risonanza, in quanto il suo legno ha la caratteristica di una eccezionale propagazione del suono, tanto da essere assai ricercato per la costruzione di strumenti musicali a corde. E infine non si può non citare il bostrico tipografo, un piccolo coleottero di 4-5 mm che scava gallerie sotto la corteccia dell'abete rosso per nutrirsi della linfa elaborata. I danni provocati da questo insetto sono rilevanti e riguardano non solo le piante secche o abbattute, ma anche quelle sane per le quali, in particolari condizioni climatiche ed ambientali, il bostrico rappresenta un vero e proprio flagello. Adriano Del Fabbro, che ci cura la rubrica del maiale, vi aveva già accennato alla figura del Purcitar in Friuli, il Norcino, un uomo che godeva la fiducia incondizionata delle famiglie, ma c'erano anche dei problemi. Una volta il Purcitar era una persona di famiglia. Quando era giunto il momento della macellazione, ci si recava dal Norcino per prendere l'appuntamento. Per la scelta del giorno, grande attenzione veniva dedicata alla fase lunare. Possibilmente la macellazione veniva effettuata in luna vecchia, luna calante, evitando accuratamente i giorni di luna piena o di luna nuova. Tra l'altro alcuni pensavano che a sbagliare luna poi i salami non legavano, cioè l'impasto non si amalgamava bene e la maturazione non era regolare. Guaio. Se si trattava di un'epurcite, bisognava verificare che non fosse in calore. C'era il rischio di buttare via tutta la carne che prendeva un insopportabile sapore di urina. Bisognava avere un po' di fortuna a recuperare il Norcino nei giorni d'inverno dedicati alle macellazioni. La macellazione del maiale era una grande festa, più del Natale. Si mangiava tanto, varie particolarità e specialità, e si beveva anche parecchio. Faceva freddo ed era un giorno di abbondanza. A sera dunque il Norcino era stanco e spesso anche un po' alticcio. Nel giorno della macellazione del maiale, dalla mattina alla sera nel del cortile era tutto un viavai di persone: il prete per la salute dell'anima, il medico per la salute del corpo, la comare per la salute dei nipoti, il maresciallo dei carabinieri, i compari, il farmacista, e per tutti c'era un bicchiere di vino e un qualche assaggio. Di quell'evento così importante il Norcino era regista e re. Non si faceva nulla senza il suo consenso. Durante il corso dell'anno era un semplice contadino, ma per l'occasione si trasformava quasi in una divinità casalinga e indispensabile. I giovani Norcini, rigorosamente maschi, erano molto stimati perché venivano considerati ragazzi volenterosi, che desideravano guadagnarsi qualche lira con un lavoro impegnativo, faticoso e difficile. Naturalmente, prima di affidare la trasformazione del suino a un giovane purcitar, le famiglie chiedevano informazioni agli anziani del mestiere in maniera approfondita. Oltre alla pulizia, una caratteristica molto apprezzata era la riservatezza. Prestando la sua opera in varie famiglie, il Norcino aveva modo di entrare nell'intimità quotidiana di ognuna di esse, ma nulla doveva sfuggire di ciò che aveva visto. Delicatezza, diplomazia e una piccola dose di psicologia facevano parte del mestiere. Nelle famiglie dove c'erano delle belle ragazze che lavoravano in fabbrica, il purcitar cercava di combinare l'appuntamento per la macellazione magari il sabato o la domenica, così se venivano mandate ad aiutarlo era anche un bel vedere. Attraverso tutte queste attenzioni reciproche si instaurava un rapporto di fiducia tra il Norcino e la famiglia, che poi era difficile da sciogliere. Cambiare purcitar significava affidare una funzione importante a una persona, forse altrettanto brava, ma sconosciuta. Il rischio di compromettere la scorta annuale del principale sostentamento familiare non valeva la pena di essere corso. Nell'angolo che solitamente dedichiamo alle ricette, Roberto Zottar ci propone un excursus spirituale su come si calcolavano i tempi di cottura quando orologi e timer non c'erano, ovvero le preghiere della cucina. Tra 3 giorni è Natale e mi sono chiesto di cosa parlarvi per coniugare la cucina con questo tempo di spiritualità. Oggi le ricette danno indicazioni precise sui tempi, tipo fate cuocere per un quarto d'ora oppure lasciate rosolare per 3 minuti, ma quando gli orologi non c'erano o erano un lusso per pochi, come si faceva? I primi orologi meccanici sui campanili sono del tardo medioevo, gli orologi a pendolo appaiono a metà del XVII secolo e solo successivamente compaiono gli orologi da taschino. Prima, per misurare il tempo, c'erano il sole con le meridiane o le clessidre a sabbia o gli orologi ad acqua e comunque erano tutti oggetti non certo per la gente comune o per i contadini. La misura del tempo di cottura si basava solo sull'esperienza del cuoco, ma l'ingegno, aiutato dalla quotidianità, aveva architettato un sistema altrettanto sicuro per avere la cognizione dei tempi di cottura. La Chiesa Cattolica nei secoli ha condizionato i fedeli nel loro modo di mangiare e c'erano giorni dove si doveva mangiare solo di magro o addirittura digiunare. Bene, anche per i tempi di cottura delle vivande la Chiesa, sia pure indirettamente, influiva consentendo di scadenzare i tempi. Ecco come i nostri avi si regolavano per avere cibi sempre ben cotti. Nel ricettario Libro de Arte Coquinaria del maestro Martino da Como, cuoco personale del patriarca di Aquileia, siamo a metà del XV secolo, si legge «Fate cuocere per lo spazio dei doi paternostri». L'uso delle preghiere scandiva quindi il tempo e la loro durata era pressoché costante. In un vecchio documento di una pieve toscana si legge che nel tempo di 2 gloria patri, cioè 10-12 secondi, si cuoceva il fegato. Bastava metterlo nell'olio bollente con la salvia e un gloria per parte. Le Ave Marie, 15 secondi, scandivano il tempo per cuocere i biscotti brigidini. La pasta veniva tenuta fra le pinze di ferro arroventate il tempo di recitare un'Ave Maria. Un credo, quindi un minuto e mezzo, era il tempo di cottura di un uovo al tegamino. Per le uova sode, 2 poste di rosario per l'uovo cotto giusto, 3 poste per l'uovo cotto molto. Il pane doveva fermentare ben coperto per il tempo necessario a recitare un intero rosario, 20-25 minuti, e, potenza della fede, una messa cantata faceva cuocere un cappone. Una piccola considerazione, la devo però a questo punto fare. Se per un qualsiasi motivo non si potesse leggere un orologio o non accedere ai molti timer delle nostre cucine, quanti sarebbero ancora in grado oggi di determinare il passare del tempo nel modo sopra descritto? Temo che molte vivande risulterebbero o molto cotte o molto crude. Buon Natale! E ora con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento poco attivo, con prezzi stabili alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine venerdì scorso, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 15,80 a 16 euro il quintale IVA esclusa, la soia tra 33,80 a 34,10, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 15,70 a 16,20, il frumento tra 18,30 a 18,60. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 90 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 40 centesimi. Mercato fiacco nel comparto dei bovini a macello, con le vacche a fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni ancora sofferenti nel settore dei vitelli da ristallo, con i blubelga maschi quotati tra 5,80 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4 e 4,40, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,50 e 1,70. Toni con tendenze stazionarie nel comparto suinicolo, con il valore della tonzola di 30 kg franco partenza fissato a 2,98 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,62. Infine tendenze stazionarie nel mercato degli avi cunicoli, con i poli a terra pagati tra 0,85 e 0,87 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,49 e 1,51, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,55 e 2,59, le oche tra 4,80 e 5 euro, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona in aumento tra 2,65 e 2,71, mentre il prezzo delle uova oltre i 73 grammi è di 14,20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Livio Stefanuto diamo uno sguardo al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Nelle ultime due settimane la nostra regione ha visto l'alternarsi di giornate con tempo bello e altre con molta pioggia. Tra il 12 e il 13 si sono succedute due giornate invernali con neve fino a bassa quota, intense piogge in pianura e sulla costa e una bella nevicata di quasi mezzo metro sul Canin. Sono quindi susseguite due giornate di bel tempo, poi una saccatura scendendo sul Mediterraneo occidentale ha fatto fluire sulla regione per alcuni giorni correnti miti e umide che dal 16 al 21 hanno portato prevalenza di nubi e cielo coperto. Dal 17 a oggi si sono succeduti diversi fronti che hanno portato ingenti piogge sulla regione, con neve solo oltre 2000 metri. Nell'ultima settimana si sono registrati infatti quasi 500 mm sulle Prealpi Giulie, da 100 a 400 sulle Carniche, da 100 a 200 sulla pianura pordenonese e udinese, fino a 100 mm sul Goriziano e sulla costa. Solo alla fine del periodo si è rivista la neve fin quasi a fondovalle, ma solo per pochi centimetri. Le temperature sono state molto miti per il periodo, specie le minime, che non sono scese sotto i 10 gradi in pianura e 12 sulla costa, mentre le massime si aggiravano sui 15 gradi. La temperatura media della prima decade era stata in linea con la norma. Poi, nonostante un po' di freddo tra il 10 e il 15, la seconda decade è stata più calda della media climatica, specie per le notti calde, a causa sia del cielo coperto che dell'aria umida mite. Così, mentre la media a metà mese doveva attestarsi sui 5 gradi in pianura, si sono avute diverse giornate con una media di 12-13 gradi, più tipiche di inizio novembre che da dicembre inoltrato. Da domani inizia un periodo di tempo più stabile e asciutto, con il promontorio anticiclonico che dall'Africa si spinge sull'Europa occidentale, facendo fluire correnti settentrionali più fresche sull'Italia. Per diversi giorni dunque, probabilmente fino alla fine dell'anno, il tempo rimarrà bello, in genere sereno o al più poco nuvoloso per qualche leggera velatura in quota. Le temperature torneranno a essere più invernali, con minime attorno allo zero in pianura, mentre le massime saranno ancora sopra la media del periodo. L'umidità sarà relativamente bassa, per cui anche il rischio delle nebbie sembra rimanere confinato alle ore notturne. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni e, a nome dell'Osservatorio Meteorologico Regionale dell'ARPA, porgo a tutti il nostro augurio di un sereno Natale. Termina qui la puntata, anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano, un vier di Chang al salve vin e pan, ovvero un inverno freddo da cani salva il raccolto dell'uva e del frumento. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano augurando un buon Natale e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita